Ah, il beat è direttamente da Studio Stile. Studio Stile. Demo X. Xtape volume 2. Demo. Yo. Che noia, ogni giorno cerco una scappatoia. In paranoia perché si sa che la vita è troia. Ogni sua scoria resta e mi ha insegnato qualcosa. Non va come nei film, l'amore non è un romanzo rosa. La musica che scaccia i miei pensieri e pensi in rima. Oppure in certi casi li rende più intensi di prima. Io mi confido con sta penna, fra la carta canta. Guerra come a Sparta e campa, solo chi carta ne ha in abbondanza. Qui ci sono troppi parassiti, resto in para nella city. Fanno a gara nei siti, più quelli parlano più ridi. Cercano visualizzazioni in tutti i modi lo fanno. 9 su 10 parlano di cose che nemmeno sanno. Diranno che spacciano e che buttano giù denti. Ma chi fa ste cose non le sperpera ai 420. Attenti a chi vi segue solo per convenienza. Non tutti sanno che ogni azione porta una conseguenza. Vedi qua e vedi come va qua, chissà sa. In questa giungla solo chi ha coglioni sopravviverà. Ma chi dà il più delle volte non riceverà. Questa è la realtà. Vedi qua e vedi come va qua, chissà sa. In questa giungla solo chi ha coglioni sopravviverà. Ma chi dà il più delle volte non riceverà. Questa è la realtà. Rappa su sto beat che demo ha realizzato. Ci sfidi in duello, perdi e resti demoralizzato. Crema orari a caso anche al mattino appena svegliato. Tu scemo vai di naso, è mattino e non c'è ancora mollato. Panico sul futuro riflesso. Come faccio a mettere al mondo un figlio, manco mantengo me stesso. Depresso è quel che è peggio e che il peggio deve arrivare. Poi si lamentano che la gente spaccia va a rubare. Così non vale, ci avviciniamo a periodi critici. Più tasse per noi, non per quelle merde di politici. Ma Stato, Chiesa e mafia ormai sono una cosa sola, credo solo a quel che vedo, fra non credo una parola. Nuova scuola, mad, la Genova rap che ti incanta. Senza cash, solo ansia e stress che ti mangia. Ma se io potessi andrei a vivere in Olanda. Ricerca continua di una felicità che manca. Vieni qua e vedi come va qua, chissà sa. In questa giungla solo chi ha coglioni sopravviverà. Ma chi dà il più delle volte non riceverà. Questa è la realtà. Vieni qua e vedi come va qua, chissà sa. In questa giungla solo chi ha coglioni sopravviverà. Ma chi dà il più delle volte non riceverà. Questa è la realtà. E siamo arrivati alla fine. Mad Boys Xtape volume 2, scaricabile. Simo X, yo, Aleman, Felix, Mike Froncampo, beat Andrews Wright. Non ce n'è. A casa, casa, casa, casa, casa, casa.